Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora ci siamo, cari ascoltatori, sono le 7:17 minuti, siamo ancora qui dopo il nostro Parlamento, siamo ora pronti a leggere i giornali, parleremo di quello che sta succedendo in Europa per il salvataggio o no della Grecia. Alle 8:15 con il vostro contributo, se volete, cercheremo di spiegarvi quello che sta succedendo nella notte all'Eurogruppo. Attraverso la lettura dei giornali, ma non solo, avremo con noi Chicco Testa, avremo con noi Alessandro Robecchi, giornalista che scrive per il Fatto Quotidiano, dalle 8:15, e poi ricordatevi che è lunedì, tra l'altro si è aperta oggi e si apre la 115esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Stava partendo anche la sigla del giornale radio per festeggiare questa cosa. 115esima settimana decisiva. Dai, andiamo a leggere i giornali. Per questo lunedì 13 luglio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore, ultimatum ad Atena, riforme subito o Grexit? Anche se bisogna fare attenzione, questa vicenda della Grexit, cioè dell'uscita temporanea della Grecia, non la Grexit completa, ma l'uscita temporanea della Grecia che si era profilata ieri per 5 anni, è un'ipotesi che poi nella notte è scomparsa nella bozza di accordo tra Eurogruppo e governo di Atene. Corriere della Sera, la Grecia ora è con le spalle al muro, l'Europa tratta nella notte, riforme in 3 giorni e cessione della sovranità, la replica di Atene, umiliante. Repubblica, e qui è il primo titolo che ci fa piombare, quando l'ho letto questa mattina sembrava il 1939, diktat dell'Unione Europea, Grecia al muro. Certo, l'Unione Europea nel 39 non c'era, ma il tono, sentite qui addirittura il titolo del giornale che ci fa piombare più al 1941, la Germania invade la Grecia. Questo è il titolo del giornale, la Germania invade la Grecia. La Stampa, Grecia, poche ore per salvarsi, la linea dura dell'Eurogruppo. Il Fatto Quotidiano, Grecia, colonia d'Europa. L'Unità, tragedia greca, ultimo atto. E il Messaggero, diktat dell'Unione Europea, Grecia nell'angolo. Insomma, come vedremo tra poco, l'Eurogruppo ha posto delle condizioni capestro alla Grecia da adottare entro mercoledì, altrimenti niente piano di aiuti da 74 miliardi. Prima però iniziamo da altre cose. Beh, intanto, come abbiamo sentito nel giornale radio, è nata in Italia la prima bambina da una struttura pubblica con la fecondazione eterologa, che in teoria sarebbe vietata dalla legge 40 sulla fecondazione assistita, ma c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha eliminato il divieto. È una sentenza dell'aprile 2014 e quindi in Toscana, in una struttura pubblica, dunque statale, è venuto alla luce Luca, come racconta il Quotidiano Nazionale, io l'edizione del Nord, Il Giorno, a pagina 16, a Careggi la prima nascita di Stato. C'era già stata una nascita in una clinica privata di due gemelli nel marzo scorso, ma questo è il primo bambino nato con l'eterologa in una struttura pubblica. Ilaria Ulivelli racconta la cronaca, sorrisi, lacrime, dopo tanto dolore, la gioia più grande, sabato mattina è nato Luca, 3 chili. Lui non sa, decideranno i genitori se e quando dirglielo, è il primo figlio italiano della fecondazione eterologa concepito e nato in un centro pubblico, l'ospedale di Careggi a Firenze, grazie dunque alla donazione di ovulo di una donna che non è la sua madre naturale. Figlio di un autotrasportatore di 49 anni e di una mamma di Chiara di 30 anni, dopo anni di tentativi inutili, di sterilità accertata, di operazioni, un paio per lui, ora ecco la nascita con l'eterologa. E questo è raccontato sul Quotidiano Nazionale a pagina 16. Mentre purtroppo la domenica porta con sé spesso notizie di cronaca Questa è terribile, davvero, quella di Trento La Ducenta, in provincia di Caserta, dove un agente di polizia penitenziaria, per una banale lite di parcheggio, si dice sempre così, o forse raccontano che coi vicini insomma, la situazione non andava bene da un pezzo, qualcuno racconta che addirittura i litigi erano frequenti e lui spesso diceva vi sparo, solo che ieri lo ha fatto, litiga per un parcheggio e fa una strage. Pagina 20 del Corriere della Sera, spara sui vicini, stermina una famiglia, 4 morti nel casertano. L'assassino si chiama Luciano Pezzella, 49 anni, quando è stato fermato e poi si è costituito ai carabinieri ha detto ho fatto un macello. Ha ucciso 3 persone dello stesso nucleo familiare, vale a dire Francesco Pinestra, il figlio Pietro e la moglie di Francesco Pinestra, Vincenzina, e poi un collaboratore, Michele Verde, 61 anni, quando ha visto arrivare Pinestra alla guida di un furgone che secondo lui metteva sempre in un posto dove non doveva metterlo, è sceso in strada, ha ripetutamente inveito contro la famiglia, poi è risalito, ha preso la pistola e si è precipitato verso la palazzina di fronte a quella dove abita lui. Prima di raggiungere ha sparato contro Pinestra, lo ha ferito gravemente, poi è entrato nell'appartamento dei Verdi, ha cominciato a sparare uccidendo uno dopo l'altro marito, moglie e figlio. In casa c'era anche la fidanzata di Pietro Verde, Antonella, che si è salvata solo perché il giovane, quando ha visto arrivare Pezzella, le ha detto di chiudersi in una stanza al piano superiore. Anche il giorno togli il furgone dal mio posto e stermina la famiglia dei vicini. E poi commenta ho fatto un macello. Ora devo fare un appello a tutti gli adolescenti, quelli che usano i telefonini, gli smartphone per farsi video. Attenzione, spesso purtroppo questo fenomeno del sexting è un fenomeno che ha mietuto anche delle vittime, che persone che poi è successo, anche ragazze si sono tolte la vita. Insomma, è un qualcosa che l'utilizzo di questi video è sempre molto rischioso. Marco Menduni racconta l'ultima vicenda che avviene in provincia di La Spezia, sulla prima pagina del Secolo XIX. Sesso in spiaggia con video bravata. E ora, tra l'altro, decine di ragazzi sono a rischio denuncia. Lo schema è il solito: delle persone, dei ragazzi che riprendono due adolescenti che fanno un atto, compiono un atto sessuale in spiaggia. E poi il video gira su WhatsApp, gira sui social, perché i ragazzini sono così, se lo passano, commentano, ridacchiano, sfottono. Ora, intanto, la ragazzina in questione, ripresa mentre faceva un atto sessuale a un ragazzo, dice «mi hanno rovinato». E questi ragazzi che si stanno passando il materiale sono tutti accusati di possesso di materiale pedopornografico, perché la ragazza è minorenne. E allora ecco qua, il Secolo XIX, ieri mattina, su una spiaggia affollatissima, i ragazzini erano tutti indaffarati a smanettare sui telefonini e trasmettersi l'un l'altro 4 filmati, centinaia e centinaia di passaggi in poche ore. Lei confessa le amicizie più strette, mi hanno rovinato, ero per i fatti miei, mi hanno circondato, già è stato imbarazzante, ma non avrei mai pensato che rendessero pubbliche quelle immagini. È il peggio che ci si potesse aspettare. Ed eccolo qui, è un party sul mare che finisce con una ragazzina, con un ragazzo che si appartano in un angolo buio nemmeno chiaramente distinguibile. La ragazzina, forse più con l'intuizione che con la consapevolezza, capisce di poter essere filmata quando si avvicinano dei ragazzi e si nasconde con i capelli. Un altro ragazzo si avvicina e incoraggia l'atto sessuale, intorno urla d'incitamento e quando la ragazza tenta di rialzarsi, voci femminili che insistono «giù, giù, giù». Insomma, questo video fa il giro poi dei telefonini e ora tutti rischiano l'accusa di possesso di materiale pedopornografico. Video bravata, decine a rischio denuncia nello spezzino record di trasmissioni via WhatsApp. E Ale, questa sul Secolo XIX in prima pagina. Che ti ha combinato il segretario di Rimini di Rifondazione Comunista? Si chiama Paolo Pantaleoni e su Facebook a un certo punto ha postato questo bel messaggio. Ma non è ora che impicchino i due Marò? Così. La frase è comparsa 3 giorni fa sulla pagina Facebook di Paolo Pantaleoni, segretario provinciale di Rifondazione Comunista a Rimini. Da quel momento si scatena il finimondo. Risponde anche uno dei due Marò, Massimiliano Latorre. Spero che queste parole siano uscite dalla testa e non dal cuore. Lo dicesse ai nostri figli. Qui mi blocco e non voglio fare polemiche. Quando saprà che siamo innocenti, avrà ancora il coraggio di scherzare. A tutto c'è un limite, anche alla sopportazione. Questo Massimiliano Latorre, quindi uno dei due Marò. Ovviamente subito sparisce il post da Facebook. Subito Pantaleoni dice: ma è stata solo una battuta. Sta di fatto che conquista le prime pagine dei giornali con questa bella azione. Il dirigente di Rifondazione, anche sul Corriere della Sera, quell'oltraggio ai due Marò, con annessa polemica e critica da parte di tutti. E vabbè, d'estate fa caldo, si sa, e succede anche questo. Vogliamo vedere chi ha vinto il premio Mani sul volante, però mi raccomando, se state alla guida in questo momento, mani strettissime sul volante, e se siete a far colazione, oggetti contundenti per il momento da porre, poggiare, perché Stefano Zurlo sul giornale ci racconta questa bella storia. Usava i nostri soldi per i maghi. Un PM se la cava con una censura. È la storia di un magistrato che col telefonino di servizio a Potenza, forse perché non si fidava troppo della giustizia, scrive ironicamente Zurlo, forse più banalmente perché come tutti era tentata dalla fortuna e cercava via telefonino di servizio di saperne di più sul proprio futuro, insomma, chiamava a ripetizione maghi, fattucchiere e vanne marchi del caso. Accusata di peculato in sede penale, il magistrato era uscita indenne per la modestia del danno e ora se la cava con una censura da parte della categoria. D'altronde, scrive Zurlo, i casi accertati, come il giudice che cosparse di Nutella i bagni del tribunale o la PM che si inginocchiò a chiedere l'elemosina a pochi passi dal suo strategico ufficio, al giudice che dimenticò un pacco di sentenze da scrivere in una cassa, oppure al magistrato di sorveglianza che diede al detenuto il permesso di andare a trovare il fratello in punto di morte dopo avergli concesso di partecipare al funerale dello stesso, che dunque era risorto, insomma, i casi di giudici che sbagliano, ma vengono non puniti e assolti dal CSM, scrive il giornale, sono parecchi. L'ultima è questa: usava i nostri soldi per i maghi, telefonando col telefonino di servizio. Allora, parliamo di Grecia, perché si sta trattando la questione fino alla notte all'Eurogruppo. Cerchiamo di capire attraverso la lettura dei giornali cosa si profila per Atene. Allora, all'orizzonte sono nubi fosche, perché in sostanza Tsipras vuole 74 miliardi di nuovi aiuti e l'Eurogruppo ha detto: va bene, noi ti diamo 74 miliardi di nuovi aiuti, ma tu entro mercoledì, udite bene, entro mercoledì, come scrive a pagina 2 del Sole 24 Ore Riccardo Sorrentino, entro mercoledì, quindi entro 2 giorni scarsi, devi approvare questo: revisione dei sistemi di raccolta dell'IVA, riforma delle pensioni, nuovo codice di procedura civile, indipendenza dell'istituto di statistica Elstat, regole previste dal Fiscal Compact da approvare, in particolare la nascita di un consiglio di bilancio indipendente, adottare nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie. Entro mercoledì, un qualcosa che, come scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera, non basterebbe una legislatura in Italia per fare queste cose. Atene dovrebbe farle entro mercoledì per ottenere i soldi. Riforme in 3 giorni oppure Grexit. Questa è la condizione capestro, si può dire in maniera senza ombra di smentita, da parte dell'Eurogruppo. Ora resta da capire perché un ultimatum del genere, chiaramente non rispettabile, cioè come si fa a approvare tutto questo entro mercoledì? Forse si può prendere un impegno di rispettare tutto questo, ma approvare queste cose entro mercoledì, voi capite che è impossibile. E infatti Federico Fubini sul Corriere della Sera scrive: Tsipras corsa contro il tempo, ma il governo è al capolinea. Tra l'altro, non solo c'è da provare queste cose, ma secondo la linea più dura, che è personificata da Wolfgang Schäuble, cioè il ministro delle finanze tedesco, se c'è un punto che anche in Grecia sembra inaccettabile perfino ai partiti più aperti, c'è questo. L'Eurogruppo propone di aprire un fondo piazzato in Lussemburgo nel quale assemblare beni dello Stato greco per un valore presunto di 50 miliardi di euro. Come dire, metteteli tutti lì in un fondo in Lussemburgo, gestito quindi da noi, perché il timore se no è che Tsipras prenda gli altri soldi, magari i primi 10 o 20 miliardi, poi esca dall'Europa e anche questi 10 o 20 miliardi, chi si è visto si è visto. Ovviamente Fubini anche lui scrive: fra oggi e mercoledì il Parlamento greco dovrebbe alzare l'IVA a tutto campo, incluso un aumento dal 13 al 23% sugli alimenti da supermarket in un paese colpito da malnutrizione, alzare i contributi su tutte le pensioni dal 4 al 6% in vista della riforma generale, adottare il codice di procedura civile, garantire la piena indipendenza dell'agenzia statistica, introdurre tagli di spesa semiautomatici se saranno mancati gli obiettivi di bilancio e via, trasporre in legge le direttive europee sul recupero e liquidazione di un sistema bancario di fatto insolvente. Il tutto mentre si rischia e si parla di prelievo forzoso sui conti da parte del governo di Atene, la gente che forse oggi va al banco a ritirare gli ultimi soldi. Insomma, voi capite che la situazione davvero è sull'orlo del collasso, quando sembrava che ci potessero essere i dettagli per l'accordo. Così ieri il presidente del Consiglio Renzi, arrivato all'Eurogruppo, ha sparso ottimismo dicendo: siamo ormai quasi ai dettagli per un accordo. E così diceva anche Padoan. E invece la Germania, ma anche non solo la Germania, se no sembra che sono i cattivoni tedeschi, hanno picchiato duro e dicono: gli accordi sono questi, se vi piacciono oppure no. C'è stato anche un, come definirlo, uno scazzo in maniera proprio brutale tra il ministro delle finanze Schäuble e Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, quando il ministro delle finanze, raccontano tutti i giornali, attorno a mezzanotte si è rivolto al presidente Mario Draghi dicendo: non prendermi per stupido. Poi versioni smentite ma trapelate sui giornali ovunque. Schäuble sperava che la BCE interrompesse la liquidità d'emergenza alle banche elleniche in modo da provocare un tracollo finanziario della Grecia e la conseguente uscita di fatto dall'euro. Infatti Schäuble viene dipinto come il falco sulla stampa, eccolo qua: Schäuble lo spietato, l'Europa per lui è possibile soltanto a due velocità. È l'articolo di Francesca Sforza sulla stampa, pagina 4. Lui incarna, secondo i giornali, il cattivone rigoroso che vuole assolutamente che Atene applichi tutte queste riforme entro mercoledì. Che succederà? Stay tuned, come si suol dire. State con noi e entro mercoledì lo scopriremo, forse entro mercoledì. Intanto racconta Marco Imarisio, inviato per il Corriere della Sera ad Atene, 2015, fuga da Atene dall'euro, il boom delle richieste di passaporto. Si vede anche da queste cose, l'impennata negli ultimi 10 giorni, nell'ultimo anno 91.000 sono i residenti che risultano in meno in Grecia, sono persone che hanno preso il passaporto e puff, sono andate all'estero verso lidi migliori. Questo per quel che riguarda la Grecia. Intanto che succede? Politica italiana, vediamo di tuffarci nella politica italiana con qualche notizia. Beh, secondo Repubblica, Renzi è pronto al blitz sulle unioni civili. Vuole accelerare su questo tema, forzare la mano, scrive Francesco Bei su Repubblica, pagina 10. Andare avanti per non restare coi piedi nelle sabbie mobili. Nell'ultima riunione di segreteria Renzi ha deciso di accelerare su un tridente di provvedimenti, tra questi soprattutto chiudere sulle unioni civili a costo di forzare la mano al nuovo centrodestra e poi procedere sullo ius soli e poi sul conflitto di interessi. Questi sono i tre punti sui quali Renzi vuole rilanciare un'attività di governo che sembra un po' all'impasse. Il problema nasce paradossalmente per la troppa carne messa al fuoco. Il Parlamento è intasato da 5 decreti legge in scadenza che hanno la precedenza sul resto e lasciano indietro le riforme strutturali. E quindi Renzi vuole accelerare sulle unioni civili, soprattutto, anche se su questo stesso tema La Stampa racconta, pagina 9, la sinistra PD contro il rinvio della legge. È Cuperlo che dice votiamole subito pure con una maggioranza diversa. E i renziani incalzano i centristi: se non ci state scatterà il piano B. Mamma mia. Anche qui c'è sempre un piano B, non si capisce. C'era anche il piano B sui migranti d'Europa, non si è mai capito qual è adesso un altro piano B sulle unioni civili, e anche questo mi sa che non scopriremo di che si tratta. Forse la serie B, non lo so, il piano B. Come al solito ci chiarisce tutto Mauro Meazza, che lui queste cose le padroneggia proprio dalla A alla Z. Mauro Meazza, buongiorno. Qual è il piano B sulle unioni civili del premier Renzi? Avanti. Buongiorno, veramente non me l'ha comunicato quando ci siamo parlati ultimamente, ma pensavo che di lettera B fossi più esperto tu, scusa la battuta un po' datata se vuoi, ma... vabbè, ma se è un po' datata, sei tirata, è un po' datata. Più C come Champions, noi siamo più C come vabbè, Champions. Infatti, perché siete anche voi siete entrati di diritto. Senti, volevo dirti due cose. Ovviamente c'è molta Grecia sul Sole 24 Ore, c'è molto della trattativa anche sul sito del Sole 24 Ore che è rimasto aperto tutta notte aggiornando via via. Saremmo adesso insomma alle parti finali, alle parti conclusive. Non so se di un accordo o cosa, non vorrei dire nulla. Intanto sul Sole di oggi spieghiamo un po' in dettaglio le richieste, come riferivi tu prima già nell'articolo di Carlo Sorrentino, e poi naturalmente anche gli effetti, possibili effetti sul debito pubblico italiano e anche strategie, consigli per i risparmiatori, perché come abbiamo scritto in questi giorni c'è la Grecia e poi c'è anche il problema dei titoli cinesi, quindi insomma non è un periodo anche più, è un serio, periodo turbolento. Anche più serio in termini di peso, di peso certamente degli investimenti è molto più serio. Ecco, poi ti voglio dire che in realtà c'è un caso di taglio del debito da parte dei tedeschi, però fatto agli austriaci, lo riferiamo oggi a pagina 6. Si vede che si intendono con la lingua lì, è più facile. Non lo so, sarà stato un problema forse di lingua, hai ragione, e comunque la Baviera di fatto ha scontato una buona metà di un debito a una banca austriaca, per, non essendo in condizioni di onorare l'intero debito, è stato scontato. Ma trovi tutta la storia interessante, devo dire, a pagina 6 oggi sul Sole 24 Ore. Poi anche altre cose, oltre alla Grecia, anche se è difficile insomma preoccuparsi di qualcosa di diverso in queste ore, ti voglio segnalare che potresti chiedere un prestito, visto che stai per andare in vacanza, se hai bisogno ti consigliamo, oggi sull'Esperto Risponde, le varie formule di finanziamento, sai che l'Esperto Risponde allegato tutte le lunedì al Sole 24 Ore, formule di finanziamento per appunto finanziarti le vacanze. Per avere un paio di eurini, giustamente. No, ti possono dare anche di più di un paio di eurini, certo che insomma non potrai mettere i 50 miliardi a garanzia come staremmo chiedendo ad Atene, però insomma qualche cosina dovrei mettere. Però Mauro, visto che l'hai chiamato tu e anche i nostri ascoltatori, oggi non l'ho ancora fatto sentire, c'è un messaggio del nostro presidente per te. Attaccare! Vabbè, tu lo sai. Lo sai chi è che urlava attaccare Inzaghi? Ah, no, era il presidente quale, scusa? Sì, l'unico presidente che esista del Milan. Ho capito. Non volevo assolutamente venire meno a questa cosa, allora attacco, guarda subito. Ti dico che oggi ci stanno anche un ebook sul reverse charge, capisci di reverse charge? Sì, come no. Vabbè, comunque ci sono i chiarimenti più importanti sul reverse charge e poi abbiamo anche altre questioni, ad esempio relative alla cedolare secca, perché anche oggi, come ogni lunedì, ci sono una serie di pagine di norme e tributi. E attaccare! Attaccare in che senso? Attaccare la cedolare secca al modello unico? Non so, ma Peter mi sembra... Oggi c'è Carmelo Lauricella, Peter è in vacanza. Carmelo non è che ha fatto la notte anche lui il sito aggiornando le cose sulla bozza greca. È per darsi la carica, lo facciamo così, per darsi la carica la mattina, va bene. Allora, a proposito di Berlusconi, visto che abbiamo sentito l'attaccare... Secondo Repubblica c'è la svolta di Berlusconi in caso di emergenza, pronto alle larghe intese. Questo articolo è interessante per chi si interessa dei movimenti e sommovimenti della politica. Io una mano d'aiuto a Renzi la do, ma solo se la situazione precipita e non certo per fare le riforme che vuole lui. La mano d'aiuto che più volte abbiamo offerto al Premier in politica estera non è mai stata presa in considerazione, ma se la situazione economica precipitasse o ci fosse un attacco diretto contro l'Italia, noi come responsabilità ancora una volta potremmo dare il nostro contributo, anche entrando in un governo di emergenza nazionale se necessario. Così Silvio Berlusconi in questo retroscena di Repubblica, firma Carmelo Lopapa a pagina 11. Anche per il giornale Berlusconi lavora sulle alleanze, noi con la Lega ma mai leghisti. Queste sono, ripeto, la politica chiacchierata che anima spesso i giornali. Vi segnalo anche che Ignazio Marino, sindaco di Roma, sempre sotto attacco, ieri è stato duramente criticato da un editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Prende carta e penna Ignazio Marino e risponde una lunga lettera pubblicata a pagina 13 in cui dice, rivendica tutto quello che ha fatto per Roma, aver tolto le vecchie incrostazioni di favoritismo e familismo nella pubblica amministrazione per introdurre il merito come stella polare. Poi dice: io è vero non sono di Roma, ma la polemica sulla mia romanità è stucchevole. Questa sì è frutto di un campanilismo provinciale. Essere romani da 7 generazioni non garantisce una migliore capacità di governo. E poi parla e difende la scelta dei fori imperiali dove ha tolto il traffico. Sicuramente l'idea è piaciuta più al New York Times e alla BBC che ai giornali romani, ma 2 anni dopo credo che tutti apprezzino questa piccola grande rivoluzione. Vabbè, una lunga lettera, la macchina in marcia, io non mi arrendo, posso farcela. Così Ignazio Marino sul Corriere. Una lettera alla quale risponde Galli della Loggia dicendo, dopo aver letto la verbosissima lettera del sindaco Marino con tutte le cose gregge da lui fatte, mi chiedo, dato che è di dominio pubblico la scarsa popolarità di cui da tempo lo gratifica la popolazione, a cosa il sindaco crede che ciò si debba? A cosa dovremmo attribuirne la responsabilità? A un complotto mediatico? Al caso? A che cosa? Quanto alla sua persona, prendo atto dell'invidiabile pedigree romanesco che egli vanta, ma ai miei occhi ciò rende ancora più stupefacente l'assoluta incapacità di entrare in sintonia col cuore e le viscere della sua città, di ascoltarla e di farsene ascoltare. Vabbè, non passa giorno senza la sua pena per Ignazio Marino. C'è molto di politica estera. Intanto l'attentato al Cairo. Su Repubblica il console Luca Fava racconta all'inviato di Repubblica Vincenzo Nigro, che è entrato nel consolato italiano devastato da un'autobomba al Cairo, che noi eravamo l'obiettivo, noi come Italia. In realtà c'è grande dibattito su questo, perché la rivendicazione dell'ISIS è un po' fa un po' dubitare, perché hanno scritto che c'erano credo 40 kg di tritolo, invece ce n'erano 25, e poi l'utilizzo di una macchina che è stata fatta per l'attentato, che è la stessa macchina, la stessa modalità che è stata utilizzata qualche tempo fa per uccidere un magistrato in Egitto. E quindi il sospetto è che non fosse proprio il consolato italiano nel mirino degli attentatori, ma forse un altro magistrato che stava passando di lì, che sarebbe passato di lì, in realtà è passato da quella strada qualche minuto dopo e quindi si è salvato. Per cui era nel mirino d'Italia al Cairo oppure no? Questo è il dibattito. Intanto oggi il ministro degli esteri Gentiloni va proprio lì. È interessante invece, se ci spostiamo un po', ma rimaniamo in quell'area più o meno, in quell'area geografica del mondo, sono interessanti le 2 pagine, ve le segnalo, a pagina 8 e 9 del Messaggero, sul nucleare e il confronto con l'Iran, perché ormai siamo vicinissimi a un'intesa sul nucleare iraniano. Ci sono 100 pagine, come racconta Fabio Morabito a pagina 8 del Messaggero, è una bozza d'accordo che terrà impegnato il Congresso americano a lungo, ma l'intesa sull'uso pacifico del nucleare in Iran e la lunga trattativa a Vienna nei suoi punti sostanziali almeno sarebbe stata raggiunta. E c'è un'interessante pagina 9, lo scenario economico che si apre anche per le tante aziende e gli sbocchi commerciali dell'Italia, dalla Apple all'Eni e alla manifattura italiana è partita la corsa per conquistare il tesoro di Teheran. Ci sono milioni di iraniani consumatori pronti a acquistare prodotti delle aziende internazionali. Il commercio ovviamente è stato dall'embargo del 79 molto frenato, e quindi ci sono tante potenzialità per lo sviluppo commerciale economico dell'Iran anche per le nostre aziende. Sempre per rimanere in ambito estero, vi segnalo che cosa? La beffa del Chapo, il capo dei narcos messicani. Repubblica dedica due pagine a questo. Il Chapo chi è? Joaquin Guzmán, è il leader del cartello di Sinaloa, uno dei più spietati in Messico, è riuscito a fuggire da un carcere di massima sicurezza sparendo dalla doccia, nella quale poi le guardie hanno trovato un buco di 50 centimetri che andava nella fogna. Ovviamente è stato aiutato da qualcuno, forse agenti anche della polizia penitenziaria, del penitenziario, ma davvero incredibile, racconta Omero Chai, la fuga di Joaquin Guzman, detto il Chapo. Siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi in diretta, anche oggi in diretta su Periscope. Oggi c'era davvero una gara incredibile, una pagina per esempio sul principe Alberto di Monaco, sul Corriere della Sera, i primi 10 anni di principato, ma non è questa. Una pagina su tatuarsi un punto, no, mezza pagina, tatuarsi un punto e virgola per dire che la vita va avanti, è la nuova moda, ma non è neanche questa, non è neanche questa, c'è di peggio, c'è di peggio. C'è una pagina sulla Stampa, sulla seconda giovinezza del ghiacciolo. Il ghiacciolo è nato 110 anni fa, il ghiacciolo, e fa caldo, e c'è la seconda giovinezza del ghiacciolo sulla Stampa, una ma pagina. Chi se ne frega!